Hadith numero 4 da Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, che Allah si compiaccia di lui, disse: ci raccontò l'apostolo di Allah, il sincero, il meritevole di fiducia, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, in verità la creazione di ciascuno di voi si svolge nel grembo di sua madre per 40 giorni in forma di nutfa. Poi, per un periodo di tempo uguale come alaka. Poi, per un periodo di tempo uguale come mudra. A questo punto viene inviato a lui l'angelo, il quale soffia in lui lo spirito, ed egli riceve il suo destino con quattro parole, ciò che egli ha avuto in sorte. Quanto al suo sostentamento, rizq. Quanto alla durata della sua vita, ajal. Quanto alla sua attività, amal. E se è un disgraziato, cioè un destinato al fuoco, o un beato, cioè un destinato al paradiso. Per colui all'infuori del quale non c'è divinità, in verità, uno di voi fa quelle cose che fanno gli appartenenti alla famiglia del paradiso finché non resta tra lui ed esso nient'altro che un braccio. Ma se il suo destino è contrario, egli compie un'azione di quelle degli appartenenti alla famiglia del fuoco e vi entra. In verità, uno di voi fa quelle cose che fanno gli appartenenti alla famiglia del fuoco finché non resta tra lui ed esso nient'altro che un braccio. Ma se il suo destino è diverso, egli compie un'azione di quelle degli appartenenti alla famiglia del paradiso e vi entra. L'hanno riferito l'imam al-Bukhari e l'imam Muslim. Nutfa, dal verbo natafa, che significa gocciolare, colare. La parola significa goccia, stilla. Alaka, dal verbo aliqa, che significa attaccarsi a qualcosa, rimanere attaccato, indica l'ovulo fecondato che si attacca alla placenta. Mudra, dal verbo madara, che vuol dire masticare. La parola significa quella quantità di cibo triturata con la masticazione e intrisa di saliva, pronta per la deglutizione, cioè il bolo alimentare, e, per similitudine in biologia, l'embrione.